Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vogliono prorogare l'emergenza fino a Natale per mangiare il panettone. Bravi! Signor Conte, lei è un artista, sa parlare, sa mettere la lingua nel pulito, da buon avvocato del popolo, e sta infinocchiando gli italiani. Vergogna! Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Vorrei una casa con il campo da golf, che fai? Da dare ai miei figli una golf, un po' milf, una moglie che già dorme. Quando torno tardi la notte, tutto fatto come DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Prince, sono così, più viziato di Ricci Ricci. Ho una collezione di Patek Philippe che i miei friend Liguria dicono Bellin. Brizzolato come Briatore, divorziato senza rancore. Una fidanzata ventenne, uno yacht che porta il suo nome, ehi. Dica, dica, dica, parli, dica. Desiderio se. Dica, dica, dica, parli, dica. Non sta le Michelin e resti umile però in un posto figo. Dica, ti risvegli dica, su uno yacht che ti porta fino. Porto fino. Quando? Ciao Parenzu, io sono Carmela de Parioli e faccio il pompini con le caramelle Fisherman alla menta. Questo dimostra proprio la differenza tra la realtà e il reality show romano. Prima osservazione. Seconda osservazione. È meraviglioso, meraviglioso. Buonasera ad Alessandro Meluzzi, arcivescovo. Buonasera. Della Chiesa Ortodossa. Noi. Ma quando è che l'ha presentato così? Scusami, Davide, quando è che l'ha Mamma presentato mia. Così? No. Quando non è che l'ha presentato così? Quando non è che mi l'ha devi, non mi devi dire così. Allora, Porro una volta era un liberale. Ah, ancora con questa storia, sì, ma chi se ne frega? È cambiato. Mettetevi i violini, mettetevi i violini. È stato un bravissimo giornalista che ha saputo raccontare con acutezza e acume i grandi fatti dell'attualità. Ha fatto delle importanti inchieste. Poi a un certo punto tutto è cambiato. Improvvisamente toc toc toc toc. E cosa dice di Meluzzi? Come l'ho presentato? Cioè lui non... Ma fai sentire come l'ha presentato. Io dico semplicemente vergogna, vergogna. Buonasera ad Alessandro Meluzzi, arcivescovo della Chiesa Ortodossa. Ma come si fa a dire? Dai, ma gli puoi dire qualcosa tu? Allora ragazzi, il collegamento l'avete già sentito da un piccolo, penoso, disastrato appartamento fornito dalla 7 Davide Parenzo. Applausi. Mamma mia, in che gente, in che mani siamo capitati. Qui Monterosa 91 20 149 Mailand, come si dice in tedesco. Grazie. Grazie. Siamo arrivati al punto in cui tutto è razzismo, tutto viene portato in tribunale. Siamo alla fine ormai, no, siamo alla tutto fine, viene portato in tribunale. Showdown, allora, alla chiusura. Chi governa i media di Salvini prende un video di un sindacalista che si chiama Sumaoro, Sumaoro, che si batte per i diritti di tutti, disastrati, dei braccianti, disastrati, perché tratti così la gente, disastrati, disgraziati, ma come ti permetti? No, ma in senso positivo. Ma come ti permetti? No, ma dei disgraziati, cioè delle persone in difficoltà, di varie persone, soprattutto. Avete sentito che disprezzo ha Cruciani per la gente che lavora la terra? Nessun disprezzo, tutt'altro. I disgraziati. Uno che si occupa dei diritti anche di chi viene qui illegalmente, ma va benissimo. Prende questo video il signor Salvini e cosa fa? Ci mette dei bonghi sotto, sentite. Beh, è di una squallore unico. Sì, vabbè, può essere, ma cosa c'entrano i tribunali? Solo questo vuole andare in tribunale. Solo perché è di colore. Perché non ha messo delle banane allora? Delle banane. Ma non può essere tutto razzismo. Per, ma è un video. Per te nulla è razzismo, ma invece. No, per te nulla, ma non è razzismo. Non è razzismo. È disprezzare le battaglie delle persone, è irridere le battaglie delle persone. Irridere, certo, irridere. È un reato? È un reato? È un reato? E tu ne è un sei reato? Il volgare amplificatore. E io voglio chiedere questo: quanto ti pagano? Quanto nulla, ti pagano? Nulla. Denaro, quanto? Denaro, quanto? Sumaoro, quanto? E i bonghi, quanto? Vai. Quanto? Quanto? Vuol dire abolire i decreti, scusatemi, insicurezza, perché generano, creano illegalità. I decreti vanno cancellati, vanno aboliti. Non c'è luogo di fare operazione di macchiage. Allora ragazzi, ditemi voi se mettere dei bonghi, il suono del bongo sotto le parole di questo signore che vuole abolire i decreti di sicurezza, ovviamente va benissimo, significa andare in tribunale, intasare i tribunali italiani con questa puttanata. Ma dichi semplicemente che è un cretino, oppure che fanno del cinema, che questa non è politica, basi i tribunali, ci vediamo in tribunale. Ma che roba è, ragazzi? Dai, Davide, pure te lo sai, no, è una follia, dai, forza, dai, capezzone, vai. Ci avete fatto una testa così, con le mascherine, il distanziamento sociale, il metro statico, il metro dinamico, le precauzioni, i virologi, non toccate questo, non toccate quello, la caccia al runner, la colpevolizzazione di quelli che portavano a spasso il cane, dopodiché ci ritroviamo con 2000 dal Bangladesh che sono arrivati, altri che stanno arrivando a Roccella Ionica, le navi che vanno tranquille avanti e dietro. Vi rendete conto che la gente dice: ma questi sono pazzi, questi sono schizofrenici? Terza e ultima osservazione. Uno, due, tre. Sì, però posso dire su questa cosa, ma perfettamente perché sono ha sempre ragione, tre. Però ma su perché, questa cosa, ma mi spieghi perché casualmente sono sempre tre? Questa perché formula di esprime, tre? Questo modo di esprime, no, sono ma cazzi chiedo, suoi, ma perché no. Sempre di tutto tre? Uno lo invita, dice: Daniele Capezzone, vuoi venire a cena da me? Vuoi venire a cena da me? Primo, io vengo alle 20:30. Secondo, io voglio solo vino rosso. Terzo, mangio solo gli gnocchi a ragù. Ma che cazzo è? Oppure uno gli dice: Daniele, vuoi fare l'amore con me? Primo, fatti la doccia. Secondo, mettiti il preservativo. Terzo, lo faccio solo in piedi. Ma secondo te è normale ragionare in uno, due e tre su qualunque cosa? Lui conta, lui cosa ho detto io invece? Mi metto, mettiti il preservativo. Ho detto invece? Vabbè, appunto. Ma voglio dire, vabbè, ho sbagliato. Ma voglio dire, ma ti sembra normale? Uno, due. Scusa Daniele, vuoi venire a Radio 24? Uno, vengo solo tra le 19:15 e le 19:25. Due, voglio solo parlare con Cruciani. Tre, voglio mandarti a fare allora su ogni cosa. Se lui conta su ogni cosa, io lo immagino a casa quando sua mamma gli dice: Daniele, hai fatto i compiti? Uno, non li faccio al pomeriggio. Due, ho mandato a fare in culo la maestra. Tre, sono tutti di sinistra. E la mamma gli dice: ma che cazzo stai dicendo, Daniele Capezzone? Ma ti pare che oppure quando parla col gatto, sai che c'è un gatto tipo, oppure quando tipo parla pepe. Col gatto gli dice: uno, devi fare miao. Due, devi mangiare questi croccantini di pesce. Tre, devi stare sul divano. Ma non può essere tutto uno, due, tre, lo capisci o no? Sì, no, ma su devi questo, dirglielo nel merito. No, ma nel merito no, ha ma ragione. Io non voglio neanche entrare, ma nel merito no, ha ragione, non voglio, abbiamo io, portato uno, non entro nel merito di quello che dice Capezzone. Due, vi mando tutti e due a fare in culo. Tre, non rompetevi i coglioni. Non però, entro nel merito. Uno, però, non entro nel merito. Due, non lo considero in alcun modo. Tre, non me ne frega un cazzo, hai capito? Però scusami, ripeto, allora, entro nel merito. Stai dico, zitto un attimo, entro nel merito. Ci sono 13 persone oggi portate al Celio per sicurezza da Mantea, lì dalla Calabria. Sì, sì. Ora voglio dire, sì, va bene tutto, ma ha ragione o no Capezzone quando dice che siamo matti? Cioè arrivano dei clandestini, che fino a prova contraria sono dei clandestini, e noi li portiamo al Celio per sicurezza, per carità. Però quanti soldi vengono spesi, caro David? Quanti quattrini vengono spesi per queste cose? Capezzone contro 100, vai. Nel conteggio che ci dava Capezzone mancava quello di coloro che sono morti nel Mar Mediterraneo, perché i decreti Salvini hanno per un certo periodo bloccato e impedito alle navi delle ONG di svolgere la propria funzione. Quello sono calati i morti, sono calati i morti, Paolo, non giocare su morti, non va bene. È un carico umano, Capezzone, che credo un giorno ti dovrai guardare anche tu allo specchio, alla tua coscienza, guarda, e capirai, Paolo, che non è, guarda Paolo, che non è una sono cosa, calati che morti non è una l'anno cosa scorso. Bella. Detto stai questo, facendo no, una speculazione con cifre false. Stai facendo una speculazione con cifre false. Non è speculazione, purtroppo. Prima perché speculi sui morti, e secondo perché nella stagione di Salvini ci sono stati meno morti che con le vostre stagioni. Purtroppo è la drammatica realtà. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Alessandro, non parti? Eh no che non parto, sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga due ladri. Guarda, due ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto UnipolSai. Sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti, e controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. UnipolSai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Io potevo essere stipendiata. Le posso dire sugli italiani e sui bengalesi? Doppia questione. La prima, se ritenete che le norme di Salvini siano Salvini cattivo, le norme cattivissime, fate una cosa, abrogatele, certo. Ma poi subito dopo andate davanti agli italiani. Prima questione. C'ho un senegalese qui che è un mediatore culturale, Modu Gay. Senegalese? Cruciani, Susanna è la tua Stalingrado, ti sentivi invincibile, ma da ora in poi ti aspetta una lunga e dolorosa ritirata. La mia Stalingrado è un mio trionfo, direi. Trionfo assoluto e sconfitta dello Stato. Trionfo perché abbiamo raccontato una grande storia. E sconfitta dello Stato perché naturalmente nei confronti di una signora che non può fare il suo mestiere, lo Stato è assente. Questo è il punto fondamentale. Punto fondamentale. La doppietta ti farei adesso. La doppietta Santelli, governatore della Calabria, Porro, su questa storia qua. La grande doppietta. Santelli, blocco navale. Porro, col paragone, con un paragone un po' ardito. Prima Santelli. Io spero in un blocco navale, ma questo è un discorso europeo. Al governo italiano chiedo che mettano a disposizione con immediatezza. L'allarme sul fatto che ci sono dei paesi africani a fortissima intensità di pandemia e che questo avrebbe potuto portare un ritorno del coronavirus nel sud d'Italia è stato lanciato settimane, mesi addietro. Avete fatto il lockdown per gli italiani e non riuscite a fare il lockdown per gli stranieri che non li fate dovrebbe entrare. Come si può fare? Lo dice Giordano, blocco dei porti. È abbastanza ragione. Io non riesco a capire per quale motivo a noi ci rompono le balle al marchese che fa la festicciola, mentre 300 che vengono con l'ONG possono venire. Cioè è una roba senza senso. Oggettivamente la gente non lo capisce, Davide. Tu lo spiegherai. Il marchese. Tu lo spiegherai, eccetera, eccetera. Chi è il marchese? Ma non si capisce, non chi lo so che cazzo è il marchese, non lo so. Però posso dirti una cosa, la gente non lo capisce. Cioè, e provvedimenti molto forti, restrittivi nei confronti di chi è qui e di chi era in Italia, dopodiché adesso arrivano le navi, come cazzo vogliono. Le persone vengono accolte, vengono portate addirittura al Celio, non dico con tutti gli onori, se no ti incazzi, vengono portate al Celio per sicurezza, però questa è la situazione. La gente sbarca, viene accolta pure col coronavirus. E le persone normali non lo capiscono, non la capiscono questa. Ha torto Giordano, ha torto Porro. Allora accogliamo la gente col coronavirus. Sei contento di accogliere la gente col coronavirus? va benissimo. Non contento, va bene. È un'emergenza sanitaria. Ma che c'è l'emergenza? Qui sto parlando di un'altra cosa. Tu sei contento di accogliere persone col coronavirus? Ma dillo, dillo, guarda che abbiamo la gente adatta. Abbiamo anche noi la gente adatta per difenderti. Abbiamo la gente adatta, avvocati con i controcoglioni. Ma io non voglio essere difeso da nessuno, dai, non mi interessa niente. Poi ragazzi, la giustizia italiana hanno chiesto 16 anni oggi per quei due che hanno sparato, per quei due delinquenti che hanno sparato a Bortuzzo, no? Il nuotatore italiano. Tempo fa, ti ricordi quello che è rimasto in sedia a rotelle purtroppo? Certo, 16 certo. anni hanno chiesto. 16 non c'è niente anni. Da ridere. 16 anni. Dico, sono 16 anni, cioè un cazzo. È la richiesta, poi chissà cosa si arriverà, magari a 10, questi usciranno dal carcere, cioè 16 anni hanno chiesto a questi signori che hanno ridotto sulla sedia a rotelle una persona. Poi vai a vedere quello che succede invece a un poliziotto, no, il caso tu non te lo ricordi, un anno fa, a luglio, un poliziotto venne attaccato da un delinquente che gli tirò addosso, gli lanciò addosso un cane. Un altro collega poliziotto ha sparato a questo cane e lo ha ammazzato. Secondo me ha fatto benissimo, non bene, benissimo. Si chiamava Rocky questo cane. Casini, animalisti che si mettono in mezzo, eccetera, eccetera. Sai come va a finire? Hanno rinviato a giudizio il poliziotto. Cioè, tu hai una giustizia in cui c'è un signore pregiudicato che laizza un cane addosso a un poliziotto. Il poliziotto, un collega spara di questo poliziotto, ammazza il cane. Chi è che ci va di mezzo? Il poliziotto, rinviato a giudizio. Ma roba incredibile, no? Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma sono follie totali, sono follie assolute. Viva il poliziotto! Il cane è morto, pazienza, arrivederci, Rocky, ciao, ti abbracciamo fortissimo. Ma cazzo, non è possibile, no? Che quello rinviato a giudizio per un colpo di troppo, ma chi se ne frega? Il poliziotto difendeva il collega sbranato che stava per essere sbranato dal cane, su... Sì, siamo d'accordo, ma bisogna indagare, capire, periti, inchieste. I periti. Abbiamo tempo da perdere con i periti. Chi sentiamo? Il cane bisogna morto? Sentire, chi bisogna il cane? Sentire eri aggressivo i parenti non del cane. È morto. Bisogna sentire i parenti del cane. Bisogna cani, i figli del cane. Bisogna sentire i parenti del cane. I parenti del cane vanno sentiti. Sono Briatore parte mese, dice i parenti che al del sud, cane. Al sud la gente non va a lavorare perché il reddito di cittadinanza. Vecchia questione. Abbiamo il reddito di cittadinanza che in effetti e tu al sud tu non trovi ragazzi a lavorare perché loro preferiscono ricevere il reddito di cittadinanza e non andare a lavorare a fare la cassiera alla Coop che guadagna 850 euro quando il reddito te ne dà 700. Alessandro da Bologna, avanti tutte, iniziamo, vai. Oh. Alessandro, dimmi. Sì, volevo solamente dire a Parenzo che è un bolscevico da salotto, un ben pensante da villino. Sì. Bolscevico da salotto, però bolscevico da salotto e ben pensante da villino lo devo sentire bene. Dunque togli quel cazzo di voce che hai, ragazzi. No, non mi potete, no, ogni no, no, fermo, stai zitto un attimo, metti giù questo coglione che è un cretino, non ha capito chi comanda qua. Alzalo un attimo ancora, alzalo un secondo. Alza il coglione, Andrea da Torino, vai Andrea, dimmi Andrea. Se vuoi rialza ancora il coglione, proviamo a rialzare il coglione un attimo, buttato giù. Andrea da Torino, vai. Ciao, non ha capito chi comanda qua. Dimmi, allora, Andrea, io chiamo dimmi. Per complimentarvi con voi e per fare i complimenti. Non ce ne frega niente dei complimenti, nulla. Allora parto bello incazzato con Parenzo. Con chi? Vai, dimmi. Con dimmi, eccoci. Andrea, dimmi. Evviva. Ah, per il discorso che lui ce l'ha sempre con le persone che vanno a prostitute. Sì, allora? No, non è che ce l'ho, li considero dei miserabili, molto semplicemente. Molto semplicemente. Degli sfruttatori di carne umana, sì, sì, eccetera. Corretto, Andrea probabilmente è un puttaniere. Andrea, molto probabilmente un puttaniere. Ho 28 anni, vado circa dalle 2 alle 4 volte al mese a prostitute. Credo molto che bene. Sia un bel modo per far girare l'economia, purtroppo non è tassato, questo è il problema. Come sì, adesso non esageriamo con l'economia che gira adesso non è che ci vai per quello, ci vai per scopare, punto e basta. Io non ci è vado che... per piacere personale, certo. Esatto, non è che ci vai per mettere in moto o per far girare l'economia italiana, ci vai perché hai voglia di chiavare, perché ti piace l'idea, sì, non lo so, però... no. No, hai una ragazza, hai delle fidanzate ogni tanto. Ho avuto delle ragazze, delle frequentazioni, ma l'atteggiamento del signor Parenzo nei confronti di questa cosa, secondo me, si descrive con quattro sillabe: vergognoso. È vergognoso, me lo consente. Ma che cosa? Ma che cosa, Andrea? Questo atteggiamento che sembra che. Ma dove vai tu dalle puttane? Per strada? Su internet? Dove le trovi? Guardo su internet o per strada. strada con gli amici, con Marco, con i miei amici, facciamo dei tour con i controfiocchi. Con i controfiocchi. Parenzo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi dire a questi signori qua, a questi ragazzi? Se la godono, si divertono, ogni tanto pagano. Sta zitto quell'altro, e l'altro sta zitto. Io dico una cosa molto molto semplice. Sì. Io mi vergognerei come un tre cose molto semplici. Mi vergognerei come un matto a telefonare a una radio rivendicando di andare a prostitute. Ma perché? Due, se mia madre ascoltasse questa trasmissione, mi vergognerei ancora di più. Terzo, andate a fare in culo. Fermi tutti. Basta. Salta sulla tua nuova Jeep e vai. Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Per te nasce Jeep Miles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Jeep Renegade da 249 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi fino al 31 luglio. Info su jeepmiles.it. La zanzara. E come dice sempre Parenzo, se non ti lecca le palle godi solo a metà. I love my radio. A noi non ce ne frega un cazzo, ma proprio niente. Ciao, sono Giuseppe da Andria e anche a me piace leccare le ascelle delle donne. I love my radio. Oh, faccia da culo! L'orsa non la battono più! Oh, viva la libertà! Ne parleremo stasera? Ancora fa pubblicità quel coatto del brasiliano. Ma te pensa che uno che fa in pesce, uno come il brasiliano, non vuole manco guardare in faccia, quella è una bevuta. Te pensa, se te ti fanno in pesce, io non gli faccio, per carità di Dio. Di hanno affancare, io che ne so, te li fa Napoli-Roma. Ma te ci andresti col brasiliano? Secondo te, ti fermano i guardi e ti hanno bevuto. Chi è la brasiliana persona merda, io dai qua, io spacco. Fece pensa ci vai con Parenzo, giacca e cravatta. Va là, poi via pure un quintale di roba. Quando ti ferma la polizia, buonasera, grazie per il lavoro che svolgete. Una favola con Cruciani, per quanto è brutto, però se sarà portato con la gente. Cioè te pensi che il brasiliano io conosco, io fa, ma chi cazzo conosce? Ma chi sono culo? È una bevuta ambulante, io manco il caffè me ce piglierei, porco Giuda. Ciao. Sai che voglio fare, caro David? Il brasiliano contro tutti. Il brasiliano contro tutti sarebbe straordinario. Il brasiliano che viene attaccato da questo signore qui che non conosco, che in realtà, per chi ha capito il romanesco, la spiegazione è molto semplice. Tu hai capito qualcosa, forse? Cioè, praticamente qualcosa tu ho dici... capito, perché io vado a lezione da Rinaldi di romanesco, cioè imparo il romanesco dal professor Rinaldi, dal diciamo, parlamentare europeo. No, sono nato in Europa e ho mali mortacci loro, li mortacci loro. Cioè, scusi, onorevole Rinaldi, di che cosa parla? Li mortacci loro. Comunque, la spiegazione è molto semplice. Cioè, tu se vuoi fare gli impicci, dice questo, non ti puoi affidare al brasiliano. Sì. Cioè, gli impicci. Impicci e cioè, cartuccelle. Le fai con Parenzo, cioè, con le cartuccelle. Cioè, devi andare a prendere un chilo di roba a Napoli. Non ci vai col brasiliano che ti bevono subito, cioè ti carcerano subito. Ci vai con Cruciani e Parenzo che sembrano due persone per ti bene. Ti si bevino. Ma dai, ma che ma vuoi sono parlare? Una bevuta ambulante, io manco il caffè me ce piglierei, porco Giuda. Ciao. Allora ragazzi, Spatalino al top del top, si incazza come una biscia per quelli che stanno arrivando col coronavirus, positivi, nuovi sbarchi, la Calabria e non solo. Vai con Spatalo a tutta forza, vai. È possibile che questa gente che viene in Italia non c'ha mai un documento di riconoscimento? Guarda caso, però hanno le cartine dell'Italia, hanno il telefonino iPhone. E io, per comprare un Huawei modesto, ho chiesto l'anno scorso un piccolo prestito. Pure. Cioè, adesso facciamo a intenderci. Dunque, secondo il signor Spatalino, questi qua arriverebbero con un iPhone. mentre lui per comprarsi il phone, quello per asciugarsi i capelli, non riesco a capire. Mentre il phone qual è? O l'iPhone, non riesco a capire. Mentre lui, ripeto, mentre lui per comprarsi uno Huawei, la manco sa la pronuncia, eccetera, ha dovuto fare un peso, ho capito, però Spatalino, se siamo morto di fame, Spatalino, non è Spatalino è un capezzone più evoluto, no, alla fine, secondo non me. Non puoi fare così, dai. Spatalino, come no? Non ho detto che Spatalino non ho offeso nessuno. Meno evoluto, ho detto che meno evoluto. No, meno Spatalino, evoluto. No, più evoluto. No. Spatalino è un capezzone più evoluto. Ma no, meno evoluto. Perché non limite. Conta. No, più evoluto, ma perché no, almeno ma non puoi conta. Dire così, ma ho capito, non puoi dire più evoluto. Come non puoi? Ah, perché quindi dici che è un involuto capezzone, stai no, dicendo. No, tu quindi. Stai dicendo. Stai dicendo che è un involuto assolutamente no, ma figuriamo. Spatalino? No, beh, insomma, Spatalino è grezzo. Spatalino è molto detto grezzo. Tu. Io invece vedi che siccome sono una persona generosa, come sai, dico che Spatalino è un capezzone più evoluto. Quasi tutti hai denti e forti, mai uno scheletrico. Sono tutti palestrati. Sembra che escono dalle palestre libiche. E io dovrei avere pietà di questa gente? No! No! Allora io porto avanti la politica dei porti chiusi. Ma tu porti avanti cosa? Porta avanti, nessuna politica, cosa? Nessuna. Signora Lamorgese! Ancora? Oh, cosa pagherei per dirle boccalmente quello che penso di lei, di questo dillo. Governo? Porti chiusi! La parola d'ordine! Porti chiusi! Le piccole cose mussoliniane, no? Parola d'ordine, porti chiusi, vincere e vinceremo. Comunque ragazzi, tre piccole notizie sul coronavirus. Santo sia sempre Zangrillo, che oggi credo in un'intervista ribadisca alcuni elementi fondamentali. Il mitologico Zangrillo cosa dice? In Lombardia non si muore più, è un mese che non si muore più in Lombardia. Fai anche tu, uno. Guarda che aiuto, uno. Sì, non si muore più da un mese in Lombardia. Sì, due, ma dillo con più carisma però, perché non legge. Ho capito, uno. Aspetta. Ma no, ma devi essere più carico, perché capisco. Uno, è un mese che in Lombardia non si muore più. Due, esatto, l'emergenza due. È finita da due mesi. Sì. Tre, evitiamo di portare al panico e alla morte sociale. Vedi, è vergogna, no, ma chiudi anche dicendo è vergogna, perché c'è sempre vergogna. Qualunque cosa accade, dice scusi, capezzone, dov'è il bagno? Uno, in fondo a destra. Due, manca la carta igienica. Tre, non pulirti il culo. Vergogna. Ho chiesto solo dov'è il bagno? Ho chiesto, io immagino che se io ho chiesto solo dove era il bagno. Uno, in fondo a destra. Due, manca la carta igienica. Tre, fatti il bidet, ma manca l'asciugamano per pulirti. Ma dice come? No, ho chiesto solo dov'è il bagno. Solo. Non sei sempre in trasmissione. Io immagino capezzone così. Io immagino capezzone su qualunque cosa, cioè, lo trovi per strada. Allora, scusi signor capezzone, sì. Ma per caso l'autobus numero 48 passa di qua? Primo, non passa più di qua perché la Raggi ha cambiato il percorso. Due, gli autobus sono sempre in ritardo. Tre, ci vuole il biglietto. Ma c'è, scusi, io ho chiesto solo. Vergogna, perché vergogna? Vergogna, sempre vergogna. Su qualunque cosa, vergogna. Ti devi vergognare. Cioè, cazzo, chiedo solo dove è l'autobus, ti devi vergognare. Allora, tre notizie sul coronavirus. Uno, no, sto scherzando. Uno. Comunque, tre puttanate. Gli anticorpi dell'AMA che Capezzone. Potrebbero. Gli anticorpi. Capezzone. No, ma stai zitto. Anticorpi dell'AMA che potrebbero. Addirittura neutralizzarlo. Oggi è uscita pure questa puttanata. Gli aspetta. Anticorpi dell'AMA. Elena, sto facendo la radio, sono in diretta. Chi scusami. Chi è? Chi è? No. Ma chi è sta stronza? Elena Testi, la nostra inviata. Ma che è una stronza, grazie. Quella sicuramente è una stronza. Come sarà, ti permetti? No, non lei. Sarà ma una stronza sicuramente. Ma come ti permetti? Perché scusa, che cazzo ti chiama alla 19:27 questa qua? Sa, lavora sa, col tuo programma sa. E non non sa che ancora sa, sei in diretta qui. Ma mandala a fare in culo. Ma dai, come ti permetti? Ma non è un so genio come si assoluto. Chiama, non so, beh, genio, una delle più brave, un genio assoluto. Genio, stai esagerando, brava sicuramente, ma un genio no. Non sarà un fuoriclasse, sarà uno umile operaio, un umile operaio. Non ti permetti, ma è normale, una persona straordinaria, bravissima. Non pensa tu ai allora, fatti numero tuoi. Uno, una delle gli più anticorpi brave dell'AMA potrebbero neutralizzarlo. Pensa alla puttanata che abbiamo dovuto sentire. Due, gli immuni in realtà non sono immuni. perché passa dopo tre mesi, eccetera, eccetera, l'immunità, e la prendono più grave, la potrebbero prendere più grave. Altre cazzate di cui ci stanno riempendo la testa, viva Zangrillo, viva sempre Zangrillo. Terzo, non è nato a Wuhan, non sarebbe nato a Wuhan, questo cazzo era il coronavirus, ma era ovunque già nel marzo 2019. Avete rotto il cazzo, viviamo e fottiamocene di queste minchiate. Vivere, vivere, non reclusi da galera come vorrebbe Parenzo. Tu ci vorresti tutti in galera, tu ci vorresti tutti in galera, in ma galera. No, alla spiaggia di Anzio, col distanziamento sociale, ci vai tu. Io prendo aerei, treni, rispetto e le regole, hai vivere. Portato il virus in Veneto, infatti in Veneto hai creato, vai, il panico, cagare, bravo. Dai, vai a cagare, Luigi da Milano, vai. Dimmi, ciao ragazzi, dimmi. Non capisco veramente tutto questo ansio verso la prostituzione, che ce l'avete. No, io non ce l'ho, è Parenzo che ce l'ha. Parenzo, cioè Dio fare figlia, ti porco due. È legale in tantissimi paesi europei, ma paesi evoluti, ce lo stiamo parlando dell'Angola. È legale in Germania, è legale in Svizzera, è legale... Da dove stai chiamando, Luigi? Da dove stai chiamando? Da lo Milano, sento il rosino, Milano, grazie al cazzo, ho capito. Ma da dove, nel senso, con che mezzi? Col telefono. Si sentiva un po' strano, sì, si sentiva con la via voce, forse, non so che in un posto chiuso. Vabbè, amico mio, vai a puttane, domanda molto semplice, vai a puttane? Molto semplice. Sono andato, ma non vuol dire che sia un peccato capitale. È Parenzo. Giuseppe dalla provincia di Asti. È anche noioso ormai, capite? Anche noioso, parla di questa cosa. Parenzo resta della sua idea, sfruttatore di carne umana. Ma no, pazienza, ma non è che resta Giuseppe dalla provincia di Asti. Una visione molto precisa. No, volete di cambiare il mondo vostra. Ancora, come una volta i comunisti volevano cambiare il mondo. Beh, adesso voi volete cambiare il mondo secondo i vostri ideali. Ma figuriamo, una idea pessima quella di voler cambiare il mondo, perché il mondo va bene così com'è. Ma tu non vuoi cambiare niente? No, un cazzo. Giuseppe, perché i liberali non vogliono cambiare il mondo, ma i partiti cambiare, no, non il vogliono mondo, il mondo è una roba da comunisti, vogliono cambiare il mondo, ma che roba è cambiare ma il mondo, quale roba da comunisti, si sta meglio, ma che adesso visione di quando ma che visione sclerotizzata, tutti quelli che aspirano, che tutti quelli che aspirano, aspirano a cambiare, cosa. La Lega vuole cambiare il mondo, vuole Giuseppe, un mondo di sovranisti, Giuseppe, dimmi Giuseppe, dimmi. Ciao, posso parlare? Sì, vai, che, vai. Che superficialità. Sì, è arrivato si ripete, non sono io. Dimmi Giuseppe, dimmi. Ascolta, ciao Beppe, ciao Davide. Allora, intanto volevo intervenire. Uno, non mi salutare. Due, non mi chiamare per nome. Tre, dici le stronzate che devi dire e chiudi l'apparecchio. Vergogna. Fermo. Ciao, Gruccio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento La Zanzara. Tutta un coglionella, tutta un coglionella, Buonasera ad Alessandro Meluzzi, arcivescovo. Buonasera. Della Chiesa Ortodossa. Come sempre con noi Vittorio Sgarbi. Buonasera Vittorio. Eccolo. Capezzone. Vabbè, non ho fatto così, baby. Che andami, non è così. With that ass too, you know your girl likes her ass lick. Love you guys. Allora ragazzi, il capo delle sardine Santori, io dico solo questo, Santori, stavolta l'ho detto giusto, Santuzzo, San Minchia, quello che è, eccetera. Io dico, lo sai che mi è venuta un'idea? Cioè noi rimarremo in vita finché rimangono in vita le sardine. Cioè questo potrebbe essere un buon compromesso. Beh, finché questo... le sardine sono in vita, noi saremo qui. Noi saremo ma qui. Tu sei noi saremo qui. No, non sono ossessionato. Ossessionato. Sono ossessionato dalle minchiate. Sono ossessionato dalla banalità. Sono ossessionato da questo dire delle cose. Non dalle cazzate, proprio dalle cose ridicole che si dicono. Santuzzo, San Minchia, Santori. Manca la politica di prossimità. Ma che cazzo vuol dire? Le supercazzole. Manca la politica di prossimità. Ma che roba è? Ma che roba è? Santuzzo, che è tornato in televisione dopo aver detto mille volte che non ci voleva andare dopo le figure di merda colossali come quella col Papa, continua ancora dicendo che vuole fare, capito, le sue liste, o forse non scendere in campo contro i populismi per le amministrative. Ma basta. E le sardine sono la prima forza politica non partitica che è tornata in piazza, perché noi il 16 maggio eravamo in piazza con 6.000, se escludiamo i gilet arancioni che hanno violato qualsiasi regole del codice civile, noi siamo stati i primi a tornare in piazza con le 6.000 piantine a Bologna, che è un progetto che sta andando avanti. Mamma mia ragazzi, cioè mi dà fastidio quasi a sentirlo a me. Ancora non l'avete invitato lì da voi, ancora non l'avete, vabbè, non l'avete ancora invitato. No, ancora no, non l'avete, insomma, ancora invitato, non l'avete ancora quando invitato. Lo inviteremo anche te, così magari, gli dici queste cose, sarebbe qua. Meraviglioso, così ne sarei, queste cose ne qua, sarei certo. onorato, ne sarei onorato. Così vediamo, non credo vediamo sarà molto facile, non vediamo credo. Se gli fai uno vai, fate risentire Capezzone, no, dai, basta. Avete rotto i coglioni, no. Nausica della Valle, da bambina mi piacevano le bambine e mi chiedevo se ero malata. Senti. Mano a mano che mi svegliavo e andavo a dormire con il nome di quella bambina e la mattina non vedevo l'ora di andare a scuola, preparavo la cartella e tutto per vederla, mi facevo le domande: ma perché mi piace una dello stesso sesso? Sono malata? Io mi chiedevo questa cosa, però non potevo parlare con i miei genitori. No, ma io per 44 anni ho vissuto, io volevo prendere la residenza in Spagna per sposarmi una donna, ma proprio ero proprio radicato ormai nella mia natura, dovevo così, cioè ho avuto molte donne, varie esperienze, perché poi sono stata alla ricerca di quest'amore, dopo ho capito che quell'amore che mi mancava da mia madre, alla fine inconsciamente lo stavo cercando nel stesso sesso, no? Nella donna. Cos'è che fece cambiare idea alla mitologica Nausica della Valle? Perché a un certo punto ha deciso di non essere più lesbica? L'ultima proprio ex compagna che mi ha portato in una chiesa, ma pensa che fu un cantico, poi tu dici la musica, fu un cantico in macchina, cantico che aveva messo macchina. Che diceva: apri i miei occhi, vabbè. Signore, apri i miei occhi del cuore, sì, lo usiamo anche noi, vederti. Pensa. Io mentre sentivo questa musica ho cominciato a tremare e a piangere. Ho detto: lo rimetti ancora? Ragazzi, cioè, vi rendete conto? Cioè, hanno messo un cantico in macchina, non so chi mette dei cantici in macchina, cioè, un cantico in macchina e lei ha cambiato idea. Cioè, non ha più, adesso non voglio essere volgare, è passata, cioè, ha deciso che non valeva più la pena toccare la figa o fare altre cose, essere lesbica, ma la chiamata di Dio, dai ragazzi, su, dai, diventeremo tutti gay. Ma no, ma non c'è questo pericolo di diventare tutti gay, non siamo in una dittatura, non è vero, non diventeremo tutti gay. No. Perché diventeremo tutti omosessuali se i privilegi ce l'hanno solo loro. Ma quali privilegi? Ecco, c'è chi Paone, per esempio. C'è chi Paone è etero, sposato con una donna, si è innamorato del suo migliore amico, è diventato gay. Oh, festa! Ma che festa? Tutti accolti. No. Io al contrario, invece la guerra, perché non ma si può uscire. Guerra? Se tu all'improvviso da etero magari dici: sono omosessuale, hai trovato la tua natura, ti dicono. Nessuno dice niente nemmeno a te, se non vuoi più la passera, la figa e ti vuoi tornare al cazzo, va benissimo, nessuno dice niente, Nausica, nessuno sostiene che tu sei una criminale, il fatto è che dici, aspetta, ti faccio sentire. Guardate, io dico sempre, anche quando mi invitano nelle chiese, non si può pretendere che un omosessuale diventa subito eterosessuale, non è possibile, ma un omosessuale dall'omosessualità deve passare prima all'amore, alla conoscenza di Cristo e da lì ritorni normalmente eterosessuale. Cioè, allora, sei ricchione, frocia, eccetera, eccetera, cioè sei un po' frocia, come dico io, sei un po' frocia. Ti piace giustamente o la figa o il pisello, poi a un certo punto arriva Dio, arriva Cristo e ti redime in qualche modo, ti fa tornare normale. Questo è Nausica della Valle. Nausica, è rotto il cazzo. Apri i miei occhi, Signore. Vabbè, Giuseppe, ma dai, David, su, ma che ci sta? Ci sta ma un cazzo. Se vuole cantare, apri i miei occhi. Ma sì, certo, quello che vuole, canta, ma certo. Giuseppe, dai, stia avanti. Giuseppe, che volevi dire, scusa, sui cani? Non ho capito allora, bene. Allora, ci siamo o no? Sì, ci siamo, dimmi. Allora, intanto non saluto più quel coglione di Parenzo, perché prima non mi chiamare per buonasera. Nome. Buonasera, e grazie per aver chiamato. Buonasera, no, grazie per aver chiamato, molto gentile. Io sono stato educato prima, ho detto ciao. Vabbè, Giuseppe, dai, vai avanti, forza, non ci fermiamo allora, su queste cose. Allora, per quanto riguarda i cani, io ho un cane, ovviamente sono un volontario della canina, cioè sono un movimentalista. Tanti italiani riguarda... hanno dei cani. Che vuoi dire sul fatto che il poliziotto rinviato a giudizio per aver ammazzato il cane? Il poliziotto ha fatto bene a ammazzare il cane perché il padrone è stupido di quel cane lì. Doveva sparare pure al padrone, ok? Poi ma adesso, riguarda... sparare al padrone mi sembra esagerato, cioè non esageriamo. No, sparare, no, cioè, no, questo qua aizza contro il cane e tu puoi sparare pure al padrone? Scusa un attimo, il cane fa quello che dice il padrone. Ma ho capito, non è uno può sparare così a freddo, diciamo, al padrone. Vabbè. Allora, poi? Briatore, Meridione. Sai cosa fanno in Meridione? Io premesso, Meridione? Cosa fa in Meridione? Niente, c'ha un locale in Sardegna, non so cosa fa in Meridione. Fammi parlare. Dimmi, fammi parlare. Io sono romagnolo e vivo in Piemonte. Vabbè, allora? Adoro la Puglia. Dunque? Io ho tantissimi amici. Cosa fanno? Loro raccolgono le olive. Ma guai a fare una giornata in più, perché così prendono la disoccupazione. Adesso c'è anche il reddito... Può essere. Giuseppe D'Asti, sei tu Federico dalla provincia di Genova? Vai Federico, dimmi. Pronto, salve. Dimmi. Allora, intanto volevo ringraziare Cruciani per avermi trasmesso questa passione per i piedi che è veramente incredibile. Siamo al top. Sono contento di averti trasmesso questa passione, però non sono cose che si possono trasmettere. Posso dirti? Diciamo si chiama e si dice grazie. Grazie per avermi trasmesso la passione per l'opera. Grazie, mi hai fatto scoprire Shakespeare. Invece no, grazie per la passione dei piedi. Vabbè. No, voglio dire, sono cose che uno deve avere dentro. Poi, per carità, puoi cominciare ad apprezzarle successivamente. Mi hai aiutato a esporre queste cose. Ma anche tu hai difficoltà a scopare quando uno ha i piedi brutti? Sì, no, quello tantissimo. Ma la mia vera domanda era: perché è così difficile far apprezzare questa cosa alle ragazze? Cioè, le ragazze con cui sono, non faccio fatica a dirgli questa cosa perché la prendono sempre in maniera sbagliata. Cioè, in che senso? Dicono, non ho capito. Nel senso tipo, oh mio Dio, che strano che sei, ti piace questa cosa qui. Ormai, guarda, posso dirti una cosa. Credo che non sia nemmeno questo più il problema. Cioè, nel senso che le ragazze se ne sbattono dei piedi degli uomini, questo è vero. Cioè, le donne questo se ne sbattono dei piedi. Uno, può avere anche dei piedi un po' storti, anche dei piedi un po'... No, un po' dilaniati, anche vissuti, incartapecoriti, l'uomo, ma la donna sostanzialmente se ne fotte. E l'uomo, i feticisti però come noi, invece. I malati di mente come noi, su queste cose qui... malati di mente no, diciamo che... Beh sì, insomma, un po' malati di mente. Capisco. Le parti del corpo in qual modo, senza sì, ho capito, Federico, quanti anni hai, scusa Federico? 19, quasi 20. E io avevo già iniziato alla tua età, avevo già iniziato alla tua male, età. Male ascoltare questa trasmissione alla sua età, male che lei ascolta questa trasmissione della sua età a 18 anni. Mi ha aperto la mente tantissime, in realtà. No, Federico, ma vuol dire, a 19 anni quanto trombi tu? Cioè, normale, hai una fidanzata, che fai a 19 anni? Sì, tante diciamo seghe normale. Però, tante seghe. Quello sì. Tante seghe, diciamo la verità, tante seghe, non credo con le immagini dei piedi, non sei arrivato a... Io per esempio non mi sono mai segato sulle immagini di un piede. Mamma cioè di un mia. Piede di una donna o di un piede. Beh, dipende. No. Quando ce l'ho davanti, l'immagine no, l'immagine. Fissato, no, ovvio. Antonio da Roma, grazie Federico. Antonio da Roma, vai Antonio. Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo. Dimmi Antonio, dimmi. Senti, questi sono 10 anni che stanno a portare sempre la stessa comunità delle borgate, delle periferie. Ma chi? Sta a sinistra chi? La sinistra sta portando sì, cosa? Sì, a sinistra, sì. Quando sta una volta con l'aiuto di Berlusconi. Ma non cosa? Sono entrati a gli extracomunitari, gli infettati. Gli qua stanno a piedi i polmoniti, stanno a piedi tutto. Ma che stai a dire? Ma sei un criminale tu, sei un criminale. Ma tu, all'Italia, sei dentro, ancora con sto criminale, tu hai rotto il cazzo. Oh. Ma sei un povero. Ma che cosa il PD porta in Italia gli immigrati? Ma sono 10 anni, sì. Guarda, non so i 5 Stelle, perché il momento che c'è stato che ha governato... Non sono i 5 Stelle, non so, ha deciso lui. No, non sono i 5 Stelle. E adesso hanno approvato. Scusate, fammi parlare. Hanno approvato il progetto di Salvini. Perciò quelli, i malati sono, ma sono 10 anni che ci stanno a massacrare. Ma chi stanno non prendono ma più Parenzo non reagisce. Questo è il punto. Non reagisce di fronte ad Antonio. Parenzo, di fronte alle puttanate questo, di Antonio. Questo fiume in piena. Venisse in periferia, ad Antonio. Vai in periferia. Ci hanno buttato di Roma, ci hanno buttato di Essa, ci hanno buttato tutto. E poi cercano i voti qui. Senta, mi faccio una cortesia. Senta, mi faccio una cortesia. Le do il numero di cellulare di Capezzone. Segna e lo chiama lui direttamente. Amico tuo, Capezzone. Capezzone. Ma che amico mio? Allora le do il numero 33. Guarda che io sono 339. Segni. Segni il numero. Le do il numero di Capezzone. Fammi sentire. Che sei? Che sei? Lorenzo, lo sai chi è la sinistra d'Italia che è stato? Di Vittorio, Berlinguer. Questi sono tutti centri democratici. Sono comunisti così. Sono democratici, questi sono preti, sono democratici, comunisti. Se buttano a sinistra, se buttano a destra, vabbè, dove gli conviene. Non si capisce un cazzo di quello che dici, posso dirti? Posso dirti? Scusa un attimo, non si capisce un cazzo. Se tu non puoi capire niente, mi fate arrabbiare perché mi provocate un altro conto. Va con la sinistra, non si capisce un cazzo, gli infettati. Ma di chi stai parlando? Renzo. Da quando è iniziato Renzi? Ma Renzo, non Renzi, non Renzo. Renzo è un altro, quello dei promessi sposi. Da quando è iniziato Renzi, non è sinistra. Hai capito quello che ti voglio dire? Anto, hai paura degli immigrati col Covid? Hai paura degli immigrati col Covid? Questo è il punto fondamentale. No, io sono mano rotta il cazzo e sono 15 anni in periferia, subì tutte le angherie. Ma angherie di chi? Ma sei tu il problema. Il problema sei tu. Il problema sei tu. Io non so nessun problema. Sei il solito disgraziato. Senti, questo è il punto. Sai qual è il problema? Sono i giovani di oggi che non c'hanno le palle. Non c'hanno le palle perché dato che non c'è il lavoro, dovrebbero entrare dentro i posti dove ci stanno le macchinette, e cose, che dovrebbero fare? Sfasciaglie tutto. Ma chi? Io sono nato nel 43, hanno aumentato il tram per 5 lire. E che c'è? Io sono andato con mio padre a rovesciare i tram. E infatti, per questo sei andato in galera dopo, però questo è il problema. Beh, ma scusa, ce vai te, stronzo, io ci sono ido ingiustamente. Beh, questo non lo so, questo lo dici tu perché tutti qua. Tutti lo dicono che sono finiti ingiustamente in galera. Tutti. Ma c'entrai te in galera? Stai invitando alla rivolta sociale. Sociale, vergognati. Uno non ha il diritto di farlo. Due, non puoi parlare così ai giovani. Come tre, posso parlare così? Tre, sei come posso, che pensano cosa? Solo piacere pastiche. E questi fanno come cazzo gli pane. Ma ciao, Anto, ma che cazzo da venire ci hanno questi? Questi stanno a campare. Posso dire una cosa? Tre vai a fare in culo. Vergogna. Vergogna. Spalle nostre questi, hai capito qual è il problema? Ciao Anto, ciao. La zanzara. Anche io voglio entrare nel gruppo del generale Pappalardo. Eh beh, mi sembra che il legionario sia adatto al gruppo del generale Pappalardo, sia adatto ai gilet arancioni, caro David. Intanto è tornato il mitologico ingegner Negri, che paragona Conte a Hitler. Dure. A Hitler, senti. Noi, nella festa dei popoli, 14 luglio, diciamo, mamma mia, ragazzi, non torniamo al passato. No. I pieni poteri che vuole Conte in questo momento sono il lascia passare per la dittatura, la proroga dell'emergenza. Hitler ottenne la proroga dell'emergenza. Ingegner Negri. Questi sono tutti figli tuoi. Aspetta, questi fammelo qua chiamare tu in diretta. Devi vergognare. Fammelo chiamare, fai provare a chiamare. Tu sei responsabile di questa roba. Ma quale responsabile? Di che cosa? È responsabile, li hai allevati tu. Nella tua palude li hai allevati tu. Allora, vi dicevo prima del caso del cane di Napoli, no? Allora, chi ha promosso questa azione giudiziaria nei confronti del poliziotto è la Lega del Cane, una cosa di questo tipo, la Lega del Cane, la Lega per la protezione del cane, sai che ci sono queste sigle incredibili, queste sigle. Proviamo a chiamare Piera Rosati della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che è quella che esulta perché il poliziotto è stato incriminato. Proviamo. Sì, pronto? Rosati? No, sono il coordinatore dell'ufficio legale della Lega per la difesa del cane. Volevo parlare con la signora Rosati. Con la signora Rosati, temo che in questo momento non sarà possibile parlare. Se vuole può parlare con me. No, volevo parlare di questa cosa del cane di Napoli. Del cane di Napoli? Guardi, se vuole parlare con me, sono un avvocato che ha seguito la vicenda. Siete molto contenti, naturalmente, del fatto che è stato incriminato, diciamo, è stato rinviato a giudizio la gente, no? Direi di sì. Ma scusi, però, uno che deve difendere i propri colleghi, che deve fare? Uno che deve difendere i propri colleghi fa il suo lavoro senza eccedere da quelle che sono le sue competenze. Il GIP, nella sua valutazione, ha riferito che il secondo colpo appariva non necessario, il secondo colpo. Cioè, in quel momento il cane era stato già ferito. Però posso dire una cosa? Lei fa l'avvocato, sì, e fa il suo mestiere, per carità. Però i poliziotti di Napoli in particolare hanno, io lo dico in maniera molto esplicita, fanno un lavoro anche pesante, di merda, cioè hanno tanti. Guardi, ora può essere che uno viene rinviato a giudizio per un cane, con tutto il rispetto per un cane. Il problema è cane, agente di polizia, sì, con tutto il rispetto per un cane aizzato dal suo padrone delinquente per, sì, salvarsi, ho è capito, morto un cane. Pazienza, amico mio, pazienza, avvocato, pazienza. Sì, sì, no, ma guardi, la sua, voi invece la sua, andate avanti e mettete nei guai un poliziotto, state mettendo nei guai un poliziotto. C'è una norma del codice penale, che non ho scritto, ho capito, io neanche quello... lei, che prevede una condanna, una pena per chi uccide senza giustificato motivo. Ma un era animale. Un poliziotto che stava difendendo un suo collega. Un poliziotto, come no. State mettendo nei guai un poliziotto per la morte di un cane aizzato da un delinquente. Ma di che parliamo? Guardi, l'uccisione di un cane senza giustificato motivo costituisce reato. Quindi il problema è questo. Se a voi della sorte di questo. Siamo fortunatamente in uno stato di diritto. Se voi state mettendo nei guai un signore che è un poliziotto che sta passando dei guai giudiziari per avere ammazzato un cane aizzato, che si era avventato contro un suo collega, aizzato da un signore, da un delinquente, e questa mi pare una vergogna. Io sono parte di quel poliziotto. Noi siamo dalla parte dell'applicazione della legge. Ma vabbè, d'accordo, ma se la mette così allora è tutto semplice. Che vuol dire? Un giudice si trova sempre. Ma no, la legge non è... Noi siamo dalla parte dell'applicazione della legge. No, voi siete dalla parte del cane. Tra cane e poliziotto siete dalla parte del cane. Io sono dalla parte del poliziotto. Guardi, non deve essere necessariamente così. Se ci fosse stato uno stato di necessità reale, ma certo che era uno stato di necessità. Mica l'ha giustiziato quel cane. Mica l'ha giustiziato. Secondo lei l'ha giustiziato? I video sono su YouTube. E dunque, secondo lei è un'esecuzione? Secondo lei è un'esecuzione? Secondo noi il secondo colpo non era necessario. Ma lasci perdere, ma è un'esecuzione? La definisci un'esecuzione? Ma perché la deve spostare? Ma sì, ma non può dire il primo colpo, il secondo colpo, il terzo, il quarto, il quinto. Uno non è che sta là a controllare in quel momento. Spara due colpi al cane. Spara due colpi al cane. Chiederemo a chi ha in mano una pistola, e soprattutto un rappresentante delle forze dell'ordine, di saper gestire anche situazioni di emergenza come questa. Se lei è di un altro team. No, ma io sono furibondo per una cosa. Io ho rispetto del suo lavoro, ma lei sta mettendo nei guai un poliziotto per aver ammazzato il cane aizzato da un delinquente contro un altro poliziotto, e questa la trovo una vergogna. Lasciate perdere, quel cane è morto, pazienza, pace all'anima sua. Il cane è stato ucciso, si tratta di capire che l'ucciso era necessario. È stato ucciso il cane. È morto. Beh, una piccola indagine aiuterà a fare chiarezza. È stato lanciato contro un poliziotto. È stato lanciato contro un poliziotto. Ci saranno periti che faranno perizie. Ma tu ti pare normale far perdere tempo alla giustizia italiana per un cane morto? Indagini, periti. Lei sta facendo. Se il cane è stato ucciso ingiustamente, sì, mi sembra normale, perché c'è una norma che fortunatamente lo prevede. Il cane è stato assassinato. Lei fa l'avvocato animalista, lo capisco. L'avvocato animalista, d'accordo, lei è animalista e per carità, ognuno è quello che vuole nella vita. Sta facendo perdere tempo alla giustizia italiana e sta mettendo in mezzo. Questa è un'interpretazione completamente sbagliata. È la mia interpretazione. Lei sta facendo perdere tempo alla giustizia italiana, che deve fare una perizia sul cane morto. La giustizia italiana si occupa di far applicare le leggi che sono vigenti nel nostro ordinamento. Va bene, così sono buoni a rispondere tutti, avvocato. No, ma lui io... è l'avvocato del cane. E siccome l'avvocato il cane del cane, ma ti può essere normale che c'è l'avvocato siccome, del cane? Siccome dai, è su, stato l'avvocato del cane sta conducendo le indagini. Ma non protesta capire, manco il proprietario. Perché il proprietario non protesta? Il proprietario, no, del il proprietario cane. È protestato. Il proprietario è protestato, ha denunciato anche il proprietario. Pure il denuncio, pure, pure certo, cosa. Certo. Il proprietario è pregiudicato. Chi è il proprietario? Ma guardi, cioè anche se uno è pregiudicato, subisce. E qui abbiamo, allora abbiamo pregiudicato più cane che azzanna un poliziotto, e alla fine chi ci rimette il poliziotto che ammazza il cane? Io no, c'ha, no, ma guardi, non ce la posso il poliziotto, fare. Guardi, il non poliziotto non ci riguarda, il poliziotto non ci si dovrà procurare un avvocato, si dovrà procurare un avvocato agito nel rispetto delle leggi, il poliziotto. Ma hanno fatto indagini a tutto Parenzo, Parenzo, scusami un attimo. Vanno, a te pare normale che ci sia pregiudicato più cane che azzanna un poliziotto? Alla fine chi è che va sotto processo? Il poliziotto. Questo è proprio giustizialismo, quasi allo stato puro. Però al contrario, però al contrario. Come giustizialismo, facciamo in fare i magistrati il loro lavoro. Ma il cane, cioè, amico mio, il cane, ma di che parliamo? Di che parliamo? Io parliamo, guardi, se il cane è stato ucciso ingiustamente, vi ribadisco, c'è una legge che prevede poliziotti che questo fatto indagini. Facciamo indagini precise, facciamo la perizia, vogliamo fare la perizia, il secondo colpo era giustificato. Blocchiamo il cantiere, blocchiamo il luogo, la scena criminis. È successo un anno fa, non so, non c'entra. Sequestriamo la scena criminis. Ma non è possibile. La scena criminis. Un anno fa facciamo i rili e non mi interessa. Blocchiamo tutto e cerchiamo di capire come sono andate le cose. Avanti con perizie contro perizie. Buon lavoro, non glielo dico perché sta mettendo in mezzo un poliziotto. Comunque, arrivederci, grazie a poco. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a lei. La zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo, che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. La gente... Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. Già lo usavo. Mi sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. E Cruz per sempre, forever. Eccolo. Camionisti che su autostrade a due corsie ci mettete un quarto d'ora a fare un cazzo di sorpasso, avete rotto i coglioni. Sapete cosa bisogna fare con stronzi come voi? Dopo sorpasso mi metto davanti a voi e vi faccio 20 km a 50 all'ora davanti a voi. Così imparate a fare le teste di cazzo. Quant'è la velocità minima? 60? Vado 60, vaffanculo. Avete rotto i coglioni, camionisti di merda. E cari automobilisti, fate così. Quando vedete camionisti del cazzo che ci mettono un quarto d'ora a fare un sorpasso, vi mettete davanti a loro e andate 50-60 all'ora, così vi fate perdere tempo, sti coglionazzi. Ciao, voglio rispondere a quella specie di persone che ha detto che i camionisti vanno in terza corsia o in seconda corsia. È vero, qualche volta è capitato, però c'è da dire che ci sono una marea di coglioni di autisti, di automobilisti che non sanno guidare e non ti danno mai la precedenza quando stai facendo un sorpasso. Cercano di buttarsi sotto, lo fanno apposta, sono dei pezzi di merda. Quel coglione lo deve capire questo. Ciao. Ehi, che problema ha? Che problema ha quello con i camion? Che problema ha con i camion? No. Di che problema c'hai con i camion? Di che prendete la macchina una volta l'anno. Eh? Matteo da Pedro. Beh, caro Parenzo, grande format, grande format. Camionisti contro automobilisti. Che dice Carlo? Che dice Carlo dal suo studio? Dal suo studio, no? Dei suoi studi, dal suo pensatoio, roba già vista, forse roba già fatta, probabilmente. Naturalmente, no? C'è molto da lavorare ancora, naturalmente. Sì, per creare il film Duel, forse lo ricorderete, sì, quello scontro, no, certo, di Steven, sì, Spielberg, naturalmente. Sì, allora, sì, andrebbe, ad esempio, ho messo un camion nella corsia di emergenza che corre in senso contrario, naturalmente. Questo potrebbe creare, dai, un minimo di emozione, altrimenti non c'è niente, non c'è niente. Cioè, nulla, tu dici i sorpassi, eccetera. Poca roba. Dai, un camion impazzito che invece viene in senso contrario crea naturalmente un brivido al telespettatore. Naturalmente. Ho capito, però non è che uno può mettere un camion nella corsia d'emergenza in senso contrario. Ma come non può? L'incidente, ma in televisione è puoi fare tutto, no? In televisione fai tutto, come non puoi? Certo che puoi. Basta naturalmente avere il camion, naturalmente. Sì. Basta pagare la comparsa, naturalmente, capito, che poi guida con rischio di morire, si schianta, okay, naturalmente è la realtà, è la vita, succede naturalmente. Dai, dai. Allora ti faccio conoscere, dice, forse muore. Certo che uno muore, certo, non c'è mica l'immortalità. Dai. Allora ragazzi, ti faccio conoscere David, forse ne hai sentito già parlare, è l'ultima impresa di un signore che fa il tassista, famosissimo a Firenze, è un personaggio, diciamo, sui generis, ma è folle, ha frequentato transessuali, prostitute, si chiama il Monarca, signor Monarca, molti lo conoscono, comunque senti. Insomma, Maria Macutta, ora a parte gli scherzi, ma caso fuori di vaso l'altra volta. Maremma puttana, ragazzi mia. Guarda, ti voglio fare la fotografia perché tu non abbia a dire di una bugia. Guarda, maremma serpente, ma come cazzo mi ha? E poi mi ha lasciato anche la luce accesa nel bagno stamattina alle 6:30 quando devo andare via. Ma io sono una sega. Ma porca puttana, ma nemmeno la luce di bagno la spengi. Io sono una sega. Madonna, è proprio una figa questa mia. Madonna, ma come la potevo volere meglio di così? E sta parlando della fidanzata che ha cagato fuori dal vaso. Cagato fuori dal vaso e ha lasciato la luce accesa. Altro personaggio che si staglia all'orizzonte, caro Parenzo, si chiama. Pochi lo conoscono in questo caso, ma sta diventando, come dire, sul web, sta crescendo. Si chiama Bomba Anarchica. È un signore che spiega le sue difficoltà sessuali. Pure. Il Murino, gli ho detto così, entra, è dritto. Però se la donna non vuole, mi faceva in modo che non mi faceva entrare, ma perché con l'altro entra e con te no? Perché te metti male. Io là mi sono cominciato, perché poi se non te sfoghi, ti comincia a venire nervoso, sudavo, gli ho detto io non gliela faccio più. Gli ho detto io non gliela faccio più, mi sono messa a piangere come un bambino. E a me mo' merita i soldi, me ne vado. Dice almeno 20 euro, mo' me le lasci perché te l'ho ciucciato. Ho detto no, mi ridai i soldi, me ne vado. Ho detto vado da un'altra. Ha detto dia, ripieto i soldi. Ho detto io qua non ce l'ho più. Ha detto aspetta, a chiamare. E sono venuti su trans. Ah, sei sempre te. Pure l'altra volta hai fatto così. Ho detto sì, ma l'altra volta ho fatto così. Però amica tua, poi a trans, gli ho detto amica tua si è messa bene e mi ha fatto scopare. Ho detto questa invece ne manco si mette bene, non mi fa scopare, chiedo da 70 euro solo bocchino. Gli dai i soldi, mandalo via. Ho detto sì, mi ho messo, me ne vado, io qua c'è anche più. Signor Bomba Anarchica, Parezzo, signor Bomba Anarchica. Ma io vorrei una conversazione aulica tra te e questo signore, ti giuro, una conversazione tra te e questo signore. Ma io non saprei pagherei oro. Allora, dove andiamo? Jacopo da Roma, vai. Jacopo, dimmi. Ciao. Dimmi. Una cosa ingloriosa il discorso del distanziamento, più che altro di tutte le ipocrisie che ci sono state intorno all'argomento Covid, perché se uno pensa neanche tanto tempo fa, insomma, che tutti dicono il contrario di tutto, la sigaretta fa male, se col Covid, no, chi fuma la sigaretta fa bene, quindi su un discorso così sensibile si è parlato tutto di tutto. Vabbè, allora Jacopo, non ho capito, andiamo al sodo. Dunque, che una io do ragione a te, perché è una cosa ingloriosa questa di questa ipocrisia, di questo modo che viviamo tutte queste cose importanti. Vorrei essere palloso, no, però non ho capito la temperatura. Sei palloso, non è... Sì, ho capito, ma non ho capito un cazzo. Dai ragione a me su che cosa? Non ho capito. Su sul che? Discorso che è inattuabile fare il distanziamento e tutte le regole. A me lo dici, è impossibile. Francesca da Mantova, vai Francesca, dimmi. Cosa vuol dire impossibile? Cosa vuol dire? Distanziamento sociale, dite? Se tu dai alla gente la possibilità di frequentare altra gente, il distanziamento sociale è impossibile. Ma quello è... Sì, ma senza gli abbracci, stando attenti, ma lavandosi le mani. Ma che senza a rompere i coglioni, Francesca da Mantova, ancora con queste stronzate. Francesca, gli abbracci, ma io abbraccio toccandosi chi voglio. Gomito per abbraccio chi... Toccandosi ancora il gomito per salutarsi. Non ho più visto nessuno che utilizza questa cosa del gomito, nessuno. Francesca, io lo faccio ancora. Vabbè, io lo faccio vabbè, ancora. Tu fai quello che vuoi. Io lo faccio ancora. Dimmi Francesca, dimmi. Ragazzi, a me era rimasto impresso questo signore che avevate sentito poco tempo fa sulla settantina, omosessuale, vecchia scuola, non so se ti ricordi. Non ho capito, scusami Francesca. Mi era rimasto impresso questo signore sulla settantina che era intervenuto poco tempo fa, forse la settimana scorsa, omosessuale, vecchia scuola, che ha detto che o ti piace il cazzo o ti piace la figa. No, ma quello lo dice lui. Mi è sembrato d'accordo, può essere o mi sbaglio. Non lo so, David ha solo un'azienda, diciamo, è disponibile solo per un'azienda. No, parlavo di te, no, David, non lo prendo in considerazione. Ma figuriamoci se io sono d'accordo, ma come faccio a essere d'accordo su questa cosa? Impossibile, ci sono persone bisessuali, tu sei bisessuale, Francesca? Io sono bisessuale, appunto mi ero trovata in disaccordo, perché alla fine non puoi decidere appunto cosa ti piace. Cioè tu, no? A te piace sia la figa che il cazzo, diciamola in maniera molto semplice. Sì, esatto. Ma da quanto tempo sei bisessuale? Quanti anni hai? Io ne ho 29. 29 anni? 29 anni? No, l'ho consapevolizzato da poco, non da tanto. E la trovo anche una cosa abbastanza complicata, cioè poco semplice da gestire. Ma ecco. No, perché è poco semplice? Anzi, al contrario, è più opportunità di tutti noi, cioè vai sia con gli uomini che con le donne. Vabbè, sì, certo. Sei single. Ho capito, ma essere bisessuali e fidanzati dipende con chi sei fidanzato, l'altra persona deve accettare la tua bisessualità, dunque sicuramente è più complicato. Esatto. Tu sei fidanzata? Io sono fidanzata con un ragazzo e ho consapevolizzato il fatto di essere bisessuale mentre ero con lui, certo. Mamma mia, ma siamo al top assoluto, spero che l'abbia accettato. Spero che lui abbia accettato questa cosa tranquillamente. Lui l'ha accettato perché mi vuole un gran bene, quindi lui l'ha accettato, non è stato facilissimo per me, perché lo ammetto, non è stato facilissimo. Ma uno dovrebbe essere contento, assolutamente contento di questa cosa qua. Il compromesso che siamo arrivati a fare è stato quello di poter andare in un locale per scambisti insieme e fare... sai, qualcosa assieme. Scusa, e questo avrebbe reso felice me, avrebbe reso felice anche lui. E l'avete fatto o no? No, perché poi è arrivato sto cazzo di coronavirus, puttana troia, e adesso io non mi sento neanche tanto a mio agio ad andare, cercare, fare, per quanto vivo perché la mia vita. Hai paura? Hai paura? Non sono serena, cioè io non saluto nessuno con il gomito, anzi, cioè sono una ragazza tranquillissima, vivo la mia vita, però ad andare adesso in un locale cru, io non... Io non so, adesso non ti posso dire quello che devi fare o quello che non devi fare. Non so nemmeno se abbiano riaperto questi locali per scambisti o no. Non lo so, può darsi che abbiano riaperto alcuni locali. Non so se a Milano hanno riaperto, vicino Mantova ce ne sono diversi, eccetera. Sì, però il punto è un altro. Lui ha accettato il fatto che a te piacciono le donne. Immagino di sì, se io avessi qualcuna, una fidanzata, una donna che mi dice a un certo punto a me piacciono le femmine, beh, amica mia, sarei molto contento. Lui ha accettato all'inizio, sai, era vabbè, un po'... se vi piace così ti credo. Non ho capito, perché se tua moglie a un certo punto fra due anni ti dicesse a me piacciono anche le donne, mia, saresti contento o no? Mia, ma uno dovrebbe stappare le bottiglie di champagne. Ma fate quello che volete, ma non ditemi, io non vi dico nulla, ma non ditemi che è normale, non ditemelo. Ma non lo so. La bisessualità è normalissima. All'interno di un rapporto, ma non ditemi, scusami. Rimarrei. Ah, rimarresti un po' basito. Rimarresti un po' basito. Un po' basito. Ti ti innamori anche delle donne o no? Cioè, nel senso, provi una passione oppure è semplicemente una questione di sesso? Ti piace andare anche con una donna oltre che col tuo fidanzato? No. non ho capito la domanda. Non ho capito. Per te la passione per le donne è semplicemente mettere in mezzo un'altra donna col tuo fidanzato, oppure hai proprio una passione per le donne? No, mi piace, cioè, le donne mi piacciono. Voglio capire se il fatto di poter giocare un po' con il mio fidanzato può placare questa, no, placare, però capito, può farmi contenta, può rendermi serena. Questo magari può essere il nostro accordo, il nostro modo ma avete già fatto qualcosa con una donna o no? No, io lui no. Amica mia, ma siamo ancora all'inizio. Non vedo l'ora. Siamo ancora all'inizio di questa grande storia, caro Parenzo. All'inizio di una nuova vita. Posso dirti un'altra cosa? Dimmi. Io sono una di quelle che vorrebbe fare la labioplastica. Voi ne avete parlato tanto. Aspetta, ferma un attimo che riprendiamo. Aspetta, ferma là. La zanzara. Ciao, sono Miracle da Hollywood. Oggi ho imparato una nuova parola in italiano. Tazzanelli. I love my radio. Nonostante questa crisi abbia picchiato duro, nonostante un futuro che sembra si sia fermato, nonostante poche agevolazioni e tante complicazioni, nonostante tutto quello che è stato fatto per scoraggiarmi, io sono ripartito. Sono un imprenditore, sono un artigiano e per fortuna non sono solo. CNA è al tuo fianco per ripartire. Guardiamo avanti, insieme. CNA.it. La zanzara. Ma vai a fanculo, casa popolare, a te e tua sorella, casa popolare. Che cazzo mi ne fotta a me, casa popolare? È normale. In questo grande racconto popolare che è questa trasmissione, c'è la signorina Francesca da Mantova, 29 anni. Beh, certo, assolutamente racconto popolare. Ma quale racconto bisessuale, popolare? Bisessuale, fidanzata. Chiamano, ma figurati. Ma perché era spostata questa Francesca? La consideri una spostata? Ma no, non ho capito. Ma no, adesso, ma spostata no, un esibizionista sicuro, un grande racconto popolare. Di che chiamano? Camionisti invasati, neonazisti, gente che nega il Covid. Ora c'è pure la signora che dice che con il marito ha confessato di essere bisessuale. Vorrebbe andare in un club per scambisti, poi è arrivato il Covid, è bloccata, è attratta dalle donne, ma niente di più normale. Io sarei molto contento. Il suo fidanzato non so quale approccio abbia avuto, adesso pare che sia convinto. Intanto ti faccio sentire, a proposito di negazionisti, ma torniamo subito con Francesca. A proposito dei negazionisti, il professor Bacco, il dottor Bacco, è uno tra i tanti negazionisti del Covid. Strage di Stato. Parliamo di strage di Stato perché è stato lo Stato che, impedendoci di fatto di effettuare le autopsie, ci ha portato a sbagliare tutti i protocolli terapeutici nelle terapie intensive. In pratica noi abbiamo ucciso, ed è il verbo giusto, ucciso le persone all'interno delle terapie intensive. Però è un virus poco mobile che al momento non è capace di creare neanche un raffreddore, è molto difficile che possa tornare, anche perché ormai in maniera diretta o indiretta il 75% della popolazione, come dice giustamente il professor Tarro, è assolutamente immunizzata. Ma sarebbe meglio infettarci tutti, dice Bacco. Ecco perché è importante un'immunità da virus, anche se debole. Ma sarebbe meglio infettarci tutti in questo momento. Ma per piacere buttiamo le mascherine. E siamo di nuovo con Francesca. David, allora, non ho sentito bene, labioplastica, cioè le tue labbra vaginali sono pronunciate? Le mie sono pronunciate e io veramente sto cercando. Come faccio a dire? Ho voglia di farla, ma ho anche ma voglia di non farla. Ma che te ne frega di farla? Lo cioè, so, non, ma quanto non sono capisco. Pronunciate? Penzolano, non ho capito. Sono lì che sono, vuol dire, hai un clitoride molto cioè all'esterno molto pronunciato. Non c'entra niente. No, il clitoride no, è proprio la labbra. Allora, Parenzo, mi dispiace, ti prego, non ti arrabbiare. Ma non si arrabbia, però... non si arrabbia, al massimo ma si scandalizza. Non, è che non ho capito, le ma labbra, no, le ma le labbra sono dispiaciuto, dispiaciuto io, per, per il paese, per chi? Per il paese, per il paese, per il paese deve essere una condizione terribile. Allora ma io voglio dire, ma qui siamo a fare le trattative con i paesi frugali, il recovery fund, eccetera. E questa signorina viene a parlarci delle sue labbra più o meno grandi. Ma io voglio dire, quanto sono grandi? Quanto sono grandi? Irresponsabili, irresponsabili. No, quanto sono grandi ste labbra? Sono un po' grandi, però io mi ricordo che tu avevi detto che non eri d'accordo a questa cosa. Assolutamente che no, ma non è che devi seguire e me. Lo so, però quando vi avevo ascoltato mi avete fatto passare per un po' la voglia di farlo, capito? Invece adesso mi sta tornando, però mi rendo conto che non è normale. Cosa? Andare a tagliarsi le labbra vaginali, no, perché no. Tu pensi che non vada bene. Assolutamente, è come il prepuzio, secondo me. Per me è come il prepuzio, lasciatelo dire, altra follia. Uno che si taglia le labbra, a meno che non ci siano delle cose clamorose, naturalmente, a meno che le tue labbra non sì, non a meno siano, che non diano fastidio. Cioè, che cazzo ne so, sì, che sono di 20 centimetri, però... 10 centimetri, che ne so, una roba improponibile, a meno che non ci sia un problema no, enorme. Sono io... le orecchie di Dumbo. E allora basta, di che parliamo? Cioè, parliamo però del questo ideale vaginale femminile. Ma uno, che se non ha problemi, perché si dovrebbe tagliare il cazzo? Perché si dovrebbe. E se non è religioso, se non crede in qualcosa, perché si dovrebbe fare la circoncisione? È altra follia. Cioè, ma è una follia, pure quella. Se uno non ha un problema, dici, se uno non ha un problema, dici, il cazzo non te lo tagli. È una questione di igiene. Ma non è vero, non è che gli altri sono zozzi, non è così. Certo, è il prepuzio. Ha ragione, no, il prepuzio, ma ha ragione Francesco. Ma anche gli altri. Il 90% dei maschi americani lo ha fatto. Ma chi se ne frega, a parte che non è vero, sono tutte cazzate. Che anche l'OMS indica come importante. Ma basta con sta farsa, non è vero. Ma dove? Ciao Francesco, ciao. Ciao ragazzi, ciao, mi mancherete. Filippo da Milano, dai, Filippo. Filippo, dimmi Filippo, dimmi. Pronto? Vai. Io ho una domanda per Parenzo, gentilmente. Penso, lei sa dirmi per caso, perché il suo collega Cruciani che sta lì al suo microfonino si sente in diritto di parlare di cosa fare alla gente, di dire cosa fare col Covid, che può andare in giro? Io non ho detto nulla. Quello è un problema. Io non ho detto un cazzo, Filippo. Ma non scusa, ho detto alla so. Gente fate questo o fate quest'altro. Assolutamente no. Tu dici a ogni persona cosa? Che ti permette di dire cosa? Qualcosa, che bisogna stare attenti, tu subito ma ti cosa incanti, che banale. Banalità è stare attenti, ma che banalità è stare attenti, ma che banalità è, ma che stupidaggine è stare attenti, Filippo, io parlo come cazzo mi pare, non sei tu a dirmi come devo parlare, ma certo che puoi parlare, infatti stai parlando, infatti stai parlando. Ti sto chiedendo adesso. È una banalità dire stare attenti. È una banalità, punto e basta. Ok, va bene. Non ti cito i dati, sennò ti metti a piangere. Ma il governo. Cosa c'entra i dati? Cosa c'entrano i dati? Appunto, non ti metti i dati perché sennò ti metti a piangere. Quali dati? Quali? Ma senti, ma se Conte ha detto che ci sono dei pericoli, che sarà circo. Ma certo, che deve dire? Che deve dire Conte? Che cosa deve dire? Andate a fare i party in spiaggia? Deve dire andate a fare i party in spiaggia? Ma è normale che il presidente del Consiglio non dice andate a fare i party? Andate a fare le feste, che cazzo vuol dire? Ma se fa anche dei provvedimenti infatti, per questa cosa vuol dire che provvedimenti qualcosa, che no? Aprono sempre di più, certo. Chissà perché provvedimenti sì, che aprono sempre di più. Sì, ma ho con attenzione, ma con grande cazzo, attenzione, ma no, ma guarda, senza strano, dire come dici tu che non c'è più il problema, ragazzi, che è tutto finito. Questo certo dici in continuazione, finito, che è tutto finito. E di cose gravi è tutto finito, purtroppo. Certo. Assolutamente sì, te lo dicono tutti. A livello di cose gravi e di altro, è tutto finito. Ciao. Salvino da Frosinone. Salvino, vai. Aspetta, Peppe, devo. Perché mentre aspettavo a voi avevo messo il viva voce. Guarda, vai, Peppe, tranquillo, rimetti, togli il viva voce, vai. Ho tolto tutto. Ascolta, dimmi. Sono incazzato nero praticamente con Costa Crociere, no? Siccome l'altra che volta è successo con Costa Crociere? Sportello tu... reclami, vai con lo sportello reclami. Quando tu parlavi praticamente delle compagnie aeree che ognuno paga il biglietto, poi tipo la compagnia annulla il volo e praticamente chi è che aveva pagato il biglietto rimane inculato, se no si deve prendere un voce della compagnia e partire. Sì, tutta una polemica che c'è stata nelle settimane scorse. ancora continua. Mi è capitato, allora... praticamente, Peppe, mi è capitato con questa crociera. A gennaio ho prenotato una crociera ad agosto, adesso l'ho pagata anticipatamente 2100 euro e niente, praticamente il contratto 3 mesi prima annullo la crociera, non per il coronavirus, perché mi sono separato con mia moglie, avevo dei problemi. Ho capito, il ma l'hai annullato tu, però l'hai annullata tu, sì, la crociera. Sì, beh, ho capito, allora quella è un'altra cosa. Se l'hai annullata tu, è un altro discorso. Senti dove ti voglio arrivare, entro 60 giorni praticamente se tu annulli la crociera costa, nel contratto ti dice che ti rimborsa per intero, non paghi nemmeno le penali. Sì, però io non posso sapere, scusami Salvi, adesso io francamente una cosa è che una compagnia una compagnia, in questo caso una compagnia di navigazione eccetera, annulla una cosa, delle clausole tra del tuo contratto, hai annullato tu la cosa perché ti sei separato da tua moglie, va benissimo, sì, perché, ma non posso sapere le clausole adesso, è un altro discorso. E che cazzo ne so io? Non lo so, hai annullato tu, non lo so se hai fatto in tempo, non hai fatto in tempo. Non so. Annocciolo subito in tre secondi. Praticamente Costa mi dice ok, ti rimborso tutto per intero la crociera, 2100 euro. Adesso invece praticamente oggi si è arrivato un mail che dice a caso del coronavirus, se vuoi un share te lo do. Se no i soldi questo, non questo, amico mio, questo è un altro discorso. Allora, se tu avevi diritto al rimborso, Peppe, prima mi dicono rimborsiamo i soldi perché tu hai annullato la crociera e hai diritto al ripensamento. Adesso invece, perché è successo il coronavirus, Salvino, del coronavirus non ti rimborso. È roba di avvocati, è roba di ricorsi, è roba di uffici legali, e qui non è, certo, per carità, va bene lo sportello reclami. Se tu avevi diritto al rimborso, io spero che tu avrai i soldi. Il voucher in questo caso mi sembra una follia postumo a causa del coronavirus. Ciao Salvi, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Donald Trump, mamma mia, I will be, mamma mia, Donald Trump. Onore a Francesco da Firenze, nuovo leader supremo della maggioranza silenziosa, che è riuscito a combattere in netta inferiorità numerica contro Sgarbi e ovviamente quel manutengolo dei potenti detto Cruciani. Avanti tutta, Francesco. Onore al compagno Francesco da Firenze, che è riuscito a tener testa a quelle tre teste di cazzo di Cruciani, Parenzo e ovviamente lo stipendiato, il parassita statale Sgarbi. E niente, io lo propongo come nuovo leader supremo della maggioranza silenziosa, ormai Parenzo è un borghesotto inutile. Saluti dalla colonna iesina della maggioranza silenziosa parenziana, ex parenziana. Allora, caro David, qui c'è collegato un signore che ha una proposta da farti, una grande proposta Va bene, da farti. Ma ascoltiamo il fascistissimo tutti. Ferdinando Polegato. Polegato! È già questo. Che succede? Pronto? Dove sei, Polegato? Ascoltiamo quasi tutti, ho detto. Sono sempre che lavoro io sono sempre a lavorare. Beh, i fascisti lavorano sempre poi dall'altra parte, no? Purtroppo dobbiamo mantenere un sacco di merda in giro. Ma chi devi mantenere? Gente che non fa niente. Ma ho capito, ma non è che tu mantieni qualcuno al limite, mantieni la tua famiglia, poi come dire? No. Noi paghiamo le tasse, paghiamo tasse. Ma veramente tu sei quello che dice? Veramente tu sei quello che dice che è un patriota chi evade le tasse. Tu sei il primo a dirlo. Ascolta, se allora ti spiego subito. Qual è la proposta che vuoi fare a Parenzo, Polegato? Non ho capito. No, io non ho niente contro Parenzo. No, la proposta che vuoi fare, qual è, Polegato? Qual è? Che proposta devo fare? Ma che ne so, sentivo di una proposta, volevi fare una proposta, cioè una proposta che riguarda le vostre controversie giudiziarie. Ma no, ascolta, ci saranno gli avvocati che pensano queste cose qua, no? Sì, ho capito, ma qual è? Ma d'accordo, chi se ne frega, io non porterei nessuno in tribunale. Ma che vuoi dire? Che cosa vuoi dire a Parenzo? Qual è la proposta che vuoi fare? Ma no, io non voglio fare nessuna proposta a Parenzo. Io non ce l'ho su con nessuno, l'importante è che andare avanti sempre nella vita, combattere ognuno per le proprie idee. Che cazzo vuol dire? Io combatto per le mie idee, io combatto per le mie idee, cosa dici? Ma cosa vuol dire? Ma che delirio è? Ma non lo so, non ho capito, ma cioè voglio dire, tu confermi di essere fascistissimo, naturalmente. Ma io sono fascista e sono orgoglioso di essere fascista. Basta, via, in galera, dai, fine. In galera adesso, basta. In galera bisognerebbe mettere la gente come Parenzo in galera. Io pensavo, Polegato, che tu avessi una proposta da fare, così avevo sentito nel tuo entourage, una proposta da fare a Parenzo e forse pure a Gottardo per risolvere le vostre controversie giudiziarie, una proposta di grande mediazione. Mi sembra che non sia così, mi sembra di capire, no? Io non so che proposta, di cosa stai parlando, non riesco a capire. Dunque non vuoi fare nessuna proposta di mediazione? Ma mediazione ritira le querele che hai fatto, inutili querele che hai fatto. Va bene, vedremo, dai, adesso vediamo. Ma un fascista non si rivolge ai tribunali della democrazia italiana, no, un fascista come te. È assurdo, no? Assurdo, certo. A te questa democrazia ti dovrebbe fare schifo, in teoria, questa democrazia, immagino. Io dico sempre una cosa, che bisogna arrivare fino a un limite, no? Noi siamo sempre stati fino a un limite. Quando uno supera il limite è chiaro che l'altro si muove in un'altra maniera, cosa dici? Sì, ho capito, però uno che dice come te di essere fascista. Ma la gente, ma quelli che fecero la marcia su Roma, non è che poi dissero no, scusate, facciamo ricorso al TAR. Esatto, perché in realtà qui ti dico una cosa, non è sarebbe da fare la marcia su Roma, veramente sarebbe andare su a Roma a scacciare via tutti quelli che abbiamo noi che ci governano, sono dei delinquenti tutti quanti. Pure tu, delinquenti. Sono tutti delinquenti. Sì, la marcia su Roma devi fare. Tu la marcia su Roma. Ma hai un'età. Hai un'età. Sono delinquenti che pensa solo ai loro sporchi affari e basta. A noi non pensa nessuno. Ci dobbiamo arrangiare noi, lavorare e andare avanti noi. Loro pensano solo ai loro sporchi affari. Ma io dico una cosa. Tu, Ferdinando Polegato, fascista tutto d'un pezzo. Cioè uno che ha fatto del fascismo la sua vita. Io sono fascista e sono orgoglioso di essere fascista. E Parenzo dice galera, Ma noi, poveretto. Noi qui ti permettiamo di dire che sei fascista, perché siamo democratici, siamo aperti. Parenzo dice che siamo troppo democratici, che siamo troppo aperti. Facciamo parlare anche degli squinternati come te. Dunque, tu cosa vorresti? Davvero la galera per Polegato oppure anche l'ambulanza, Davide? Scegli tra queste due cose. No, ma più che galera, vorrei vorrei dei farmaci intanto per aiutarlo un po' a guarire, dei farmaci. E poi in secondo piano manderei la guardia di Firenze a vedere quanti scontrini lui non emette, ecco, tutto qua. Allora, questa guarda, è la punizione. Io forse non faccio qualche scontrino, ma io faccio tante fatture. E detto, che cazzo fate voi? Voi cosa fate voi? Signor Parenzo, lei cosa fa? Beh, quello emette fattura. Un mantenuto. Ma da chi? Mantenuto da me, da noi che lavoriamo. Ma figurati, da sto pirla qua. Siete dei mantenuti. Ma chi mantenuti? Che lavoro? Che lavoro anche luglio e agosto? Ma che cazzo vuoi? Che lavoro tutti i giorni? Che paghiamo per voi? Ma non paghi un cazzo tu! L'hai detto che non vuoi pagare un cazzo! Voi non fate niente! Siete dei mantenuti. Ma chi? Ma stiamo scherzando. Ma chi è mantenuto? Ma tu hai un'età, riposati. Mattina alla sera. Ma riposati, è inutile che pensi alla marcia su Roma, è inutile che pensi al fascismo, sono cose vecchie, riposati. Bisogna cacciarli via tutti. Ma... siamo in mano dei delinquenti. Ma se ci fosse il Duce ti metterebbe in galera. Il Duce ti metterebbe in galera. Il Duce ti metterebbe in galera. Te va bene, in galera. La faccio, non mi interessa. Ti sto dicendo che i voti, quelli del sud, specialmente la gente che è al sud, che è al governo, sono tutti voti di mafia. Ma questo è pazzo. Voti di mafia. Ciao Polega, vai a fare il culo. Pensavo, avevo capito dal tuo entourage. Che volevi una riconciliazione, invece te ne vai a fare in culo. Ciao Polega, ciao. Esatto, ciao. Tutti e due, dai, ciao. Cosa? Direttamente dal lettuccio magico faccio un saluto alla zanzara in generale. Saluto il poro mamma mia, il poro papà Renzo, mi fa una tenerezza infinita. Caro Giuseppe, il Brasile per te ci sarà sempre e ovunque. Perciò prendi la cornetta, che il brasiliano ti aspetta. Mi dispiace. Allora, forse domani, forse dopodomani, non so quando riusciremo, il brasiliano contro tutti. Ci sarà anche il legionario da Milazzo, l'ex legionario da Milazzo, che ha detto che è pieno di coca, di steroidi, eccetera, eccetera. Lo ha praticamente massacrato. Però attenzione, non è facile battere anche dialetticamente il brasiliano, eh? Marco da Roma, vai Marco. Sì, buonasera, ciao Giuseppe, ciao Lorenzo. No, niente, volevo intervenire con la nostra amica bisessuale Francesca, però sono fuori tempo massimo, ero solo curioso di sapere i genitori, insomma, però non può rispondere, quindi il triangolo non si può fare, volevo fare io. Ma in che senso? Che cosa volevi dire? Che cosa volevi dire? Ma volevo sapere se, sai, questi soggetti qui, queste ragazze, o sono quelle a cui è stato vietato tutto, hanno avuto dei tabù. Ma perché? Spiegami, non ho capito. Perché la devi dipingere come una disturbata, come una poco di buono? No, non ho detto né che è disturbata né che è una poco di buono. Non lo so, e perché allora sarebbe cresciuto diversamente da te, per esempio? Non ho capito. No, non ho detto questo, ma che ne sai cosa piace, non lo so, a me oppure cosa... Che ne so, dillo allora. Ma no, voglio sapere così se ci poteva parlare dei suoi genitori, se erano certi che l'hanno educata in un modo segregato, eccetera, o se erano peggio di lei, nel senso all'interno. Ah, tu volevi approfondire la questione. Sì, volevi approfondire facendola risalire addirittura al modo di educazione, al modo in cui i genitori educano. Una cosa del genere. Guarda, può centrare, può non centrare, però adesso non è che siamo qui sul lettino dallo psicologo per ore, possiamo stare per brevi periodi. Dimmi Marco, dimmi. Ma Giuseppe, volevo, allora, visto che questo tema è chiuso, volevo... No, è chiuso, ma non c'è niente di chiuso, è sempre tutto molto aperto. Visto che tu partecipavi prima di questo fottutissimo Covid, insomma, a trasmissioni sportive, ma secondo te no? Mirko dalla provincia di Ravenna, non parlo di pallone qua, Mirko, se non in casa eccezionale, Mirko dalla provincia di Ravenna, dimmi. Ciao Cruz. Dimmi. Ciao Parenzo. Niente, innanzitutto volevo, se possibile, salutare l'amico Titta. No, non devi salutare nessuno perché già mi hai rotto il cazzo. Devi dire quello che devi dire e basta. E Parenzo non c'è, dimmi. Niente, dimmi. Allora, l'argomento è le labbra vaginali. Io sentire questa signora che si vuole ridurre le labbra vaginali mi sembra uno scempio, perché la cosa più bella quando lecchi la passera le labbra grandi, insomma. Io non è detto, c'è gente che per esempio non ama quelle vagine un po' slabbrate, diciamo, no? Quell'eccessiva carne intorno, c'è gente che non l'ama e là si va a gusti, amico mio, non è mica tutto scontato, non è che tutti quanti hanno la tua fissazione. Anche a me piace un po' di carne in più, c'è la figa quella perfettina dove non c'è un filo di carne in più, tutta piatta, bene così, non mi piace molto. Preferisco quando c'è un po' di carne che spunta, perché mi sembra più viva, mi sembra puoi anche mordere, no, sul momento, bravo, puoi anche afferrare, bravo, mordere, giocare, non che non si possa fare anche in altre situazioni, per carità, però questa è la situazione. A me piace così, però non è che l'amico Prezzi è andato a condurre una trasmissione molto diversa sul canale La 7, dunque non ti può accontentare. Andrei a Terni da Silvio, dimmi. Io riguardo a quel fatto del cane che è successo, no? Dimmi allora. Allora, a me mi hanno fermato una volta la polizia. Sì. ho aperto lo sportello per prendere i libretti e c'è il coltello che io neppure lo sapevo. Senti, non si sente un cazzo. Luca dalla provincia di Rimini, vai. Dimmi. Luca. Luca, Bruno da Cuneo, richiamatemi Luca, dai, Bruno da Cuneo, dimmi. No, sono fuori argomento perché... No, dimmi Bruno, vai veloce, forza. Qual è l'argomento? Prima è quello di cui ha parlato l'ascoltatore, abbiamo chiamato poi anche la cosa, dai, forza. Ha ragione l'avvocato, due colpi al cane è un po' troppo. Un colpo bastava, due colpi bisogna farli. Senti, tutta questa, come un colpo al padrone? Un colpo al padrone. Due. Al padrone, due colpi al padrone. Due colpi al padrone. Ma perché uno deve ammazzare? Uno forse bastava, ma... Ma Bruno, scusa, ma perché uno... Scusa, mio amico mio, io non so quanti anni hai tu, mi sembra che sei piuttosto anziano. Se un cane attacca un uomo, è perché l'uomo, il padrone, gli ha insegnato... Ma ho capito, ma cosa c'entra? Ma sul momento non è che pensi, in quel momento lì il poliziotto deve intervenire sul cane, ma non può intervenire sul padrone. Il padrone è un altro discorso. Ho capito, però no, io stavo dicendo, il poliziotto ha fatto benissimo. Voi avete una passione nei confronti degli animali che va al di là della ragionevolezza. Quel cane è stato adesso. Senti, io vado a camminare, mi sono comprato le bombolette, ma più bombolette, mezzo sarà per il cane per difendermi in quel momento. Ma le altre vado a tirargli al padrone del cane a casa sua. No, scusami Bruno, ma non è il punto. In quel momento lì il poliziotto, non so se abbia esagerato, ha pensato di difendere un suo collega, di difendere un suo collega sparando, punto e basta. Sparando e ammazzando il cane, punto. Cioè, ha fatto quello che doveva fare. Hai detto che il secondo colpo non va bene, hai detto? No, fa bene, gli manca solo un pezzo. Ah, tu dici va bene quello, però sopprimere pure il padrone. Ammazza, amico mio. Samuele da Milano, vai. Samuele, dimmi. Samuele, dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi Samuele. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dai, non c'è più, dimmi. Riguardo alla circoncisione, volevo dire che io l'ho fatta in età adulta, a 30 anni. E perché l'hai fatto? Per qualche problema? Sì, perché ho preso una piccola infezione batterica. Adesso ne ho 37 e devo dire che... Ho capito, però tu hai preso l'infezione batterica. Non è che lo fai così a cazzo perché dopo è meglio. No. Che però... cos'è meglio? Perché è meglio? È molto meglio riguardo all'igiene e anche il rapporto sessuale. Ancora così. Il rapporto sessuale dice che ritarda un po' l'eiaculazione. Vabbè, d'accordo, ma questo... tu lo smentisci. Proprio... Che cos'è meglio allora? A parte l'igiene, proprio... che è tutto da discutere, ma... No, ma proprio il rapporto sessuale cambia totalmente. In che modo cambia? Oltre a ritardare, va bene, ma quello è la cosa minore, proprio è che più... Cosa? Più che? A livello di utilizzo, mi sono trovato meglio. Vabbè, questa è una questione personale tua, non è che tutti quanti ce lo dobbiamo tagliare perché se scopa meglio. Fermo là, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Oggi torna così, ragazzi, se vi siete salvati alla diretta siete miardati, fratelli no! Fratelli no, prendete il muro, fratelli!